Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Glossa per gli appassionati del problema delle fave o delle fave di cacao, vedi puntate precedenti. Il mio argomento verteva proprio sull'opportunità o meno di utilizzare un uso metaforico del termine, come per l'appunto fave si è riferito a quelle di cacao. Come dice qualsiasi buon dizionario. Non a caso, infatti, non mi sono sognato neppure di prendere in considerazione, che so, per esempio, quell'uso metaforico citato a pagina 110 della semantica dell'eufemismo di Nora Galli de Paratesi. Grazie della cortese attenzione a tutti, grazie a Cristiano Valli per la regia. L'appuntamento rimane confermato a domenica prossima, alla medesima ora.